Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Chiara Albicocco. In campo sanitario ci sono iniziative che nascono dal mondo privato e poi quelle che mettono in campo gli enti pubblici. Ma riescono questi due attori che intervengono su così tanti aspetti a coprire tutto quanto vada fatto? Ecco, sappiamo che non è così e che spesso non lo è anche per ragioni materiali molto precise. L'apporto del volontariato, per esempio, l'abbiamo tutti ben presente, però poi ci sono attività che richiedono una specifica via di mezzo. Sono attività che necessitano di strutture di intervento consistenti, dotate di strumentazione e con capacità organizzative che, per esempio, vanno oltre i confini della possibilità di azione del volontariato e anche della possibilità di soggetti come i comuni, soprattutto in anni di casse vuote come quelli che stiamo vivendo. In breve, un'iniziativa privata che sappia erogare servizi sanitari a costi estremamente contenuti è la risposta a queste esigenze. Una formula è quella del fondo di investimento etico, accoppiata a strutture private in grado di esporre prezzi largamente accessibili. Federico Pedrocchi ha intervistato Luca Foresti, amministratore delegato del Centro Diagnostico Medico di Milano. Sentiamo. Luca Foresti, buonasera. Buonasera. Allora, stiamo per parlare di fondo di investimento con presupposti etici, però c'è una definizione più rigorosa. Mi dica esattamente qual è e poi che cosa vuol dire, cos'è che fa questo tipo di struttura? Allora, Oltre Venture, che è il primo fondo di venture capital sociale in Italia, non fa altro che raccogliere fondi, soldi, da investitori privati e istituzionali e investire questi soldi per creare delle aziende che vadano a risolvere problemi sociali aperti che non sono risolti o c'è molta difficoltà nel risolverlo da parte dello Stato o da parte dei privati esistenti. Quindi laddove i profitti sono bassi, le difficoltà per risolvere il problema sono elevate, soprattutto difficoltà gestionali, e quindi fa anche innovazione nel modo con cui si fa qualcosa per riuscire a renderlo sostenibile sul piano finanziario oltre che qualitativamente elevato. Il tutto ovviamente rivolto a una classe di cittadini che non può permettersi di spendere cifre folli e quindi con una grande attenzione al costo complessivo per il soggetto che ottiene il servizio da questo punto di vista. Quindi c'è proprio uno spazio abbastanza grosso nel quale si può inserire produttivamente un'attività come questa. Immagino, infatti adesso ci arriviamo subito, che una sua mission fondamentale sia quella della sanità, però il fondo investe anche in altre cose. Certo, ad esempio microfinanza ha il più grosso investimento in Italia in tal senso, investe in case in cui le persone possono accedere per brevi periodi, persone in difficoltà, social housing quindi, o ha investito in altre iniziative, tutte tese ad andare a toccare un elemento di welfare con una modalità che è un welfare a carattere privato, ma appunto sostenibile per gli utenti. Ecco, questo fondo, questo Venture Capital sta investendo per quanto riguarda la sanità in una struttura che è il Centro Medico Sant'Agostino, ha una sede a Milano ma sta per aprirne una a Bologna. Ecco, per esempio, io so che avete due iniziative specifiche che possono descrivere appunto che tipo di attività diversa può svolgere un centro come questo. Ovviamente noi come Centro Medico Sant'Agostino abbiamo ormai 6 sedi a Milano e facciamo attività diciamo a carattere sanitario, però pensiamo che per migliorare la salute delle persone si debba agire anche in altro modo, quindi ad esempio abbiamo lanciato già da qualche mese, adesso abbiamo ottenuto anche il patrocinio del Comune di Milano, un'iniziativa che abbiamo chiamato Camminiamo e che non consiste in altro che gruppi di cammino con anche un elemento culturale in cui noi una volta alla settimana incontriamo le persone che vogliono partecipare e dalle 19 alle 21 le portiamo in giro per Milano camminando con una camminata abbastanza sostenuta attraverso dei percorsi che abbiamo identificato precedentemente, fermandoci ogni tanto in punti interessanti della città e raccontando quel punto, e quindi diventa un'iniziativa a carattere fisico, quindi di benessere fisico, ma anche a carattere sociale. Ormai più di 350 persone hanno partecipato e faremo ogni giovedì sera dalle 19 alle 21 questo tipo di iniziative. Abbiamo visto crescere il numero di persone, sappiamo anche che in altre città d'Italia questa cosa ha avuto grande successo, quindi abbiamo pensato di essere i primi a proporla nella città di Milano. Poi so che lavorate con un progetto che riguarda i bambini, piccoli anzi. Abbiamo fatto una cosa semplice ma molto utile per i genitori, cioè abbiamo in 6 mesi di lavoro raccolto da parte di tutti i nostri specialisti, che ormai sono più di 250, le indicazioni di che cosa nei vari momenti della vita di un bambino bisogna fare per farlo stare in salute. E quindi abbiamo creato un diario di crescita e diciamo, l'abbiamo scritto innanzitutto in un diario cartaceo che distribuiamo ai bambini che vengono dai nostri pediatri, ma poi l'abbiamo anche reso scaricabile gratuitamente online dal nostro sito cmsantagostino.it/diario di crescita e abbiamo creato un sistema informatico in cui il genitore, mettendo semplicemente la propria mail e la data di nascita del proprio bambino, da quel momento in avanti riceve una mail di ricordo di che cosa fare in quel momento. Luca Foresti, grazie e buon lavoro. Grazie. Smart City termina qui. Ci sentiamo domani. Buona serata.